passato, qualche flash dal mio passato, a spezzo nel buio un soffio di fiato, che forse mai più mi attraverserà. Il gioco è bello, ma un'ansia a volte, i miei pensieri e la bellezza tua, cuore caldo, io tu Morgana, per sempre qui aspettando te. Amore, di poca fede o di